Questo era Angelo Gaia che ci ha raccontato questo episodio, a sua volta gliel'è stato raccontato dallo stesso Veronelli, come risposta a una domanda che spesso Veronelli si sentiva porre: quale fosse stato il vino migliore che mai avesse bevuto. Ecco, il vino senza nome dato da una bellissima donna in una cena in cui si parla di filosofia e storia, ecco, è un po' l'ideale che ogni degustatore vorrebbe incontrare quando parla di bellezza riferito al vino. Io darei molto volentieri la parola adesso a Gigi Brozzoni, che oltre ad essere, come abbiamo già detto, curatore della guida ai vini di Veronelli, è stato direttore del Seminario Veronelli, la nostra associazione, per 25 anni, e ci ha regalato lui stesso uno splendido articolo sulle 5 idee che sconvolsero il mondo enologico italiano, quindi mettendo in luce, cercando di mettere a fuoco quanto spesso si dà per scontato, ma molto difficile da determinare, cioè qual è stato il contributo concettuale teorico di Luigi Veronelli al mondo del vino italiano. Lo ha fatto benissimo.